Mi hai colpito, ti piace più 50 o 40 con la modulazione? Questo cosa faccio. Te lo dico tu che sei tecnico in materia. Ogni volta che praticamente in un mese dovevo accendere almeno 3-4 volte, fare qualche passaggio per la chiesa di Bomba, perché se non facevo questo tipo di attività, praticamente non accendevo, non accendevo più. Ci sono messe cose qua dove. Tutto quello che c'è dietro. Un casino era, mi sono toffato. Tu immagini che da Cusano era l'unico cliente che comprava le manovre per la linea 3. Se non le prende più, adesso facciamo un magazzino più le manovre, quindi a me le prende. Ma anche il mentre compravo 2, 3, 4 manovre, mi sono toffato. Ho fatto il proprio continente, le rare. Guarda, senti un po', io questa linea, ho tagliato la 5, questa è tutto, finito, ricordo, bimbo, mamma mia. Ok, cosa c'è di fare? Una cosa c'è qua, ma lui dice, quanto va a chiudere? 100 euro? Sì, quello che non si può trovare a fare. Esatto, ma pazienza, i ricevitori ancora ce l'hai? Guarda, i ricevitori ho il ricevitore 7000 e basta. Ho dato tutta la roba lì, che non mi facevo niente. Mi sono tenuto la linea Unifan completa, trasmettitore USB esterna con linea esterna che è lunga 1 metro e poi 902 dm che è il valore della Gage, grandissimo, più grande del 940, poi tutte le altre, il Mombasa 707, 7D, 711, 920, 940, 10.000, 850, 440, 403, che poi sono 430. L'ultimo si dice, ma no, non parlo più, non ho capito. Maria Luisa, Maria Luisa. Siccome era 100 ogni giorno a tutti i gestori, però quei 100 io, cioè 100 solo erano per i gestori, poi ho controllato, servo sicuro di credito, questo 4 euro, ma sono tutti gentissimi, a chi le rubagendi? Infatti insomma è troppo strano, ragazzi, non sono tutti i gestori, ma c'erano solo 100, ma sono tutti i gestori. Ma ti ho fatto, voi ci siete centissimi. Ho chiamato, però voi mi avete spiegato, io adesso. Vabbè, la prossima volta siamo di vostra manduta. La fate scadere questa scheda, ce la abbiamo in luce, e via i messaggi. Ma tu devi contare che, vabbè, la Vodafone. La team sì, mi puoi mandare a tutti i gestori, però te la 500. La Vodafone te la 100 ogni giorno per un mese. Vale più che meglio questa qua, però lo devo mandare a tutti. E adesso mi faccio un casting, adesso vediamo domani o lunedì, vado per me qua. Aspetta, un attimo, tu sei un... Guarda, fatemelo devo dire, un bastardo, perché da cazzo, che anni ti pareggio, pure mosso voi. Poco stai facendo, ma mamma l'avevo già detto, entri, poi ti chiamo il parissimo. Mi stavo di rimosso, un buon pezzo, dimmi ma è lui. E chi è, Antonello? Antonella! Sì, perché è già, troppo complicato a Pomponio. Aspetta, non sono io. Aspetta, ci sono i ladri qua. I ladri? Che ti vuoi la televisione? No, anche se sono anche io. Sì, avanti piano. Siamo lì, siamo la sera. Speriamo che c'è tutto il tempo per la porta. Già, la giornata si mette i cazzi. Scusaci. Ciao, la lui. Ah, referendum. Non ci ha mai detto nessuno, io piano piano mi sono fatto tutte le rivelazioni. Comunque adesso vediamo, se riesce a prendere quella tazza va bene, altrimenti lo mando fuori e... perché ho ordinato lì 7.000 e quell'altro, e quindi una radio dovrò per forza per aiutarmi, se no mia moglie si deve far correre la via di andare a piedi, cioè via mare, fermati anche quanto quanto dopo c'è la camera e sopra l'acqua. No, che sei io stato di magari adesso là. Ah, non è stato bene così. Ma se me lo hai voci lui, tu. Se rimani su un momento di chiusa non è male. Che meglio così, dai. A me la riesco a essere destinata, e se no poi mi trovo in due, cioè vabbè. E poi sono tutta la forza io, capito? Come rimani su era tutta la mia forza. E allora è meglio stare sempre sulla 85, 86 kg. C'è un problema, c'è una cosa di vibrarsi, capito? E le mette quante santo c'è da buttare. Come hai lì c'è 7.400 mi sono arrivato per Natale, mia moglie ha detto guarda ti voglio regalare il corpo, non c'è problema, dammi 500 euro allora 500 le aggiungo io e ce la può bello apparecchio, bello un'altra cosa però non ce la permette già dall'anno scorso invece quest'anno ho preso l'850 adesso mi ha preso la prima per quella adesso la 440 la ripresa non la mia moglie mi ha preso le 5-7.000 qua almeno completiamo anche la serie di comma e qui siamo intanto ma che ci vuole dire come ho detto la mia moglie non è un bravo figlio ha un bravo figlio adesso siamo un bravo ragazzo e che quindi mi compra la ripresa ma no ma che cosa è finito allora ma battere mi va a cacca. Franco California non c'è più, Gianni. Gianni, quel ricchi, diciamo, ma sono mancate. No, è rientrato, Gianni. Sì. Gianni. Ciao a tutti, ciao anche a Franco, buonanotte alle prossime. Giorgio è rimasto, Gianni, oh, Chris, ripeto, ah, oh, Claudio, voi avete il due. Ma c'è già la fissa, ciao. Stavo con le schifo. Ah, c'è il porco pure, ma va tanto bene. Ciao, ho fatto parlare anche. Non capisco, non ho parlato, non ho detto. sempre della stima. Certo, beh, se riusciamo a fare fino alla festa di Siano. Ma non c'è una cosa di scimmia. Questo è un ballasso, la sera, la chiusa. Beh, Claudio, poco fa lo sta piovendo. Faccio un rumore, stavo... Com'è il rumore? Giusto? avevi scoperto tu il succo lì. Sì, a me se non mi sono stato io lì che non c'era, però c'è che a Cosimo e a Cosimo che vengono le balanti da dammi. Tu che lì che non sono lo scolevare, sta all'interno, capito? Mentre c'è la costruzione, che può, come le cose di tu, si fa un punticello e si fa forza la scuola loro, si fa un punticello e lì che non c'è. Mentre invece il Cobra è salito tariffa un po' di prezzo, intorno ai 270 euro. Capito, tutto lì. Ma adesso vediamo come si comporta, se c'è molta differenza. Oh, 200 è molto bello, mi piace molto, una bella bella. Va bene, scusate la monopolizzazione, volevo fare questo interrogativo ventrello. Vai Luca. Non c'è problema, quando stavo messaggiando, là. Vabbè, anche se ti va vedendo di errato che io non ci arriverei mai a come fosse questa radio, la grandezza, non parli di radio mai sentite, mai viste. Boh, chi è rimasto? Cristian, magari Luisa, Lasci basti il radio, Gianni! Sono anche un attimo. Leggi lì. Comunque, ma e come vuol dire Claudio? Ma devi partire là, no? Allora, ci va. Ci va, dopo vacanze si muove, prossima settimana. Questo è l'ultima, hai visto la fotografia che ti ho fatto vedere sul telefonino dell'amplificatore? Quella radio è una grandezza del genere, tu, così, per renderti... per darti una risposta, ecco. E sono apparecchiature di una strada superiore ai baracchini e che si usano per fare un tipo di attività. Vanno anche molto bene invece, cioè, soprattutto l'FT200 è praticamente il modello prima di quello che aveva Antonello, non so se tu l'hai conosciuto, l'FT250 che aveva Antonello quando era in via Recedo, era una bellissima radio. Questo è il modello prima, sempre stessa tratta. C'è una colonia interna e praticamente l'ordine interno l'hanno fatto incorporato, mentre all'altro quello che avevo preso c'era l'ordine interno separato, sempre di linea, ma sono dei lezioni di un metro di lunghezza, capito? Non me lo ricordo, in realtà non mi ricordo l'altro apparecchio, che è l'altro, quello che c'ha, diciamo, adesso. Solo lui mi ricorda e basta. No, ci vuole pure dire Claudio, se devi partire là la fiera. Ehi, tutto, partenza la prossima settimana da Palau. Però non sono stato questo sabato, volevo andare a Nuoro che c'è una manifestazione radio, io ho capito. E la relazione col baracchino, perché lì vogliono usare i baracchini, di solito usavamo sempre apparecchiature diverse. Lì vogliono usare i baracchini e quindi mi sono voluto attrezzare e mettere il baracchino in macchina per fare le prime prove, siccome domani è già venerdì, capito? E quindi volevo fare le prove. Adesso sono andati a Marche a Cagliari, vedo un po' di comprarmi questo stilo per la PLC 800 che vengono lì in ricambio, le metto uno stilo nuovo e se d'accordare faccio la caratura come faccio io. Piano piano, perché abbiamo tagliato il prezzo di netto senza fare nessuna misurazione, non ho fatto corta la penna, capito? Ma pure Franco viene con te, sì. Siamo una trentina. A che non fa la storia, la fiera? Si conferma. Siamo anche apparecchi, guarda c'era pure quello che voglio dire. Dimmi quello che vuoi, Luca, però comunque non ci sono problemi. Mia moglie mi ha messo a disposizione 1000 euro. Ma lo compri tu. Mi capitano male i soldi. Cioè, male, quando i soldi adesso, per tu qua prendilo. Ma non più di questo più lì, ma non più di, ho detto, con 80 euro. Sarebbe detto, ma adesso non ne ho. Cioè, mi devo rientrare dei soldi, ma non adesso. Magari buona la settimana, non lo so, ma due settimane, e chi lo sa? Vabbè, i soldi quando arrivano mi lungo. Sacrifici ne facciamo, quindi io ogni anno decido così. Tanto c'erano grandi passati che l'attrice si vanno a mettere la pirata e poi mi succedeva una cosa e non succede se la maglia requisita. Allora ogni anno faccio finta che il tredicesimo ne ho, ma prendamela e me la ciuccio in radio, grazie a tutti. Ascolta, no, guarda, se tu sei disposto, cioè se hai la possibilità, se ti viene bene, vedi un po', al limite guardi, qua dare il numero da Franco, o mi chiami da quello di Franco, e mi dici, lui, cioè, ma la chiedo che vuoi tu, cosa approcci, tu lo puoi prendere, poi appena, lo stato non è che faccio tanto tempo, è rimasto un anno, ma no, ormai anche, fa due settimane mi detto questi scusi, mi dici, lui, cosa approcci, con Claudio, no, non lo prende, è troppo caro. Mari mi dice, lui cosa hai dato con 100 euro, 100 euro, ti compra a premio. Io vado a fare due settimane, ti do i soldi. Se ti viene bene, non fa niente. Ma il problema non c'è. Il problema c'è qual è? Che questa fiera che fanno è una fiera amatoriale, praticamente ci sono radio della casa che io via, no? Computer, telefonia, cioè tutto quello che è telecomunicazione. Sia in software che in audio, vi tutto, antenne, tutto. Tratterò, però, come dicevi, non c'è stato mai niente, io ho visto sempre pochi cavo, ma tratterò, che c'è qualche stellista che ha anche dei marchini, capito? Come è capitato quando ci siamo andati, e c'era questo, c'era una stella dove aveva dei marchini. E ti ho lasciato chiuso, guarda, io ne ho 10. Amici o l'uno, tu te li prendi, quello che funziona non funziona, capito? Che se non è quello, perché non me rendono, quindi chi ce ne ha porta lì, come si offrirà? È capitato che se voglio comprare tutti e 10 un mio amico che ha dei mesi di trasporto, per farti capire quello che porta i giornali, bim bum bam, li ha presi, di quei 10 quattro non funzionavano, 6 funzionavano perfettamente. Capito? Qualcuno mi chiama il microfono, si arrangiava, non mi c'è trapporto, ma a 10 euro l'uno, E ti dico che ce n'erano, tipo Multimore 3, tipo Midland, ce n'erano tre alla 48 e 2 alla 68 addirittura. Poi c'era Multimore 3, che stavo dicendo, ma non lo ricordo cos'era. Ah, è una pietra dell'MS200. Quindi i marchini che volevano, no? Che volevano. Di questi 10, ti ripeto, 4 non funzionavano, c'erano problemi di trasmissione, fino a lì andavano bene, ma certo di trasmissione, mentre volevano messi un po' forte in linea. Sì, erano perfetti, e infatti ce li hanno portati nel furgone. Ha preso praticamente a 10 euro l'uno, ha preso 100 euro e ne ha comprato 10 di baracchini, capite? Andava. Però ne ha preso 10, su 10 ne ha trovato, sì, mi ha detto, buoni, per contare la mano. Ah, buono, quello qua, ripeto, visto che tu non sei pulito in bocca, vedi un po' tu, che arriva tu, che ne vale la pena. Io voglio tornare a 4.500, oppure uno simile a quello. Basta, va più grande, poi mi dovrò comprare un alimentatore più grande, perché sicuramente con questo non ce la fa. Ma io ho visto mio fratello a Stefano che usava questo alimentatore e parlava. Beh, c'è quell'alimentatore, c'era quella robe, ma erano i serile e un alimentatore c'è tempo, ce la farà tranquillamente, non c'è un problema, capito? Io guardo volentieri, non c'è un problema. Se c'è qualcosa di interessante, ti faccio un colpo di telefono e te lo dico. E poi mi dai a disposizione più merito, capito? Però dico che a volte non c'è niente di baracchini proprio. A volte c'è qualche tendista che decide assieme alla radio a volte di mettere un po' di baracchini, c'è un fusilaglie, capito? Accordatori, quelli vecchio tipo, la testa chiesa, la Inter, che io addirittura avevo preso, una volta ci hanno dato dei commutatori d'antenna della Inter, quattro commutatori 5 euro, tu immagini, a quattro venivano uno, e di cui ce li ho attaccati io, ce li ho attaccati tutti e due, perché sono tre vie, quindi sia antenne, io ho sia antenne disponibili, e me li ho attaccati, commuto le antenne sulla radio, e sono andati sempre bene. 5 euro, 4 commutatori, capito? Ho fatto anche a Franco. Quindi, ci sono cose dire, se ti ho io compro le stagioni, uno l'ha fatto a Franco, addirittura noi ci abituati, quando abbiamo un cavo cotto, hanno finito di mettere il PL, il variolotto, il bimbomba. Va bene, ma non è perché è un lavoro fatto così a Carloa. In fiera vengono gli spettoni anche da 2 metri, con il PL da una parte, il variolotto preso, c'è cioè fatto in macchina, dove c'è solo la filettatura. E sono tutti, guardate, a 1 euro, capito, spettoni da 2 metri, da 3 metri, a 1 euro l'uno. Io quelli ce li ho tutti, ce li ho attacco N, attacco PL, attacco col variolotto. Infatti quell'ultimo lavoro l'ho fatto a Franco, che aveva problemi perché siamo d'accordo a passare dietro la scrivania di Maria tutta attaccata al balcone. E l'ho fatto per bene. E come sono di quelli? Non è discrezione, la corruzione non è presente, non cambia niente, capito? Perché ce l'ho fatto a Maria. Per dirti cosa vendo, ci vendo tanto di quella roba che qua ce lo sognano, non l'hanno mai vista. No, comunque te la rispetto, lo hai detto. Cioè, ti capita, mi dà un colpo di telefono, poi vediamo un po'. Non mi vale nessuno, ce ne vale la pena. No, ma noi che più, anzi che più l'angolo già non funziona, non mi ricordo. Cioè, ce la prendi da usi. No, no, vedi tu, là. Se ne vale la pena prenderlo, insomma. Infatti, la buttare sul di così, già non nasce, no, si butta la maglia, mi farò. Insomma, buon prezzo, l'ho portato a prendere, ma non più di quel tanto lì, mattino, vale, aspetterò, però me lo cerco io qua, se lo trovo, veramente prima me lo trovo, se mi va bene lo prendo, se no, lupo dal capo. Lu, vediamo, quando sono lì ti dico qual è la cosa più necessaria che si può fare, va? È fattibile. Ok, un secondo vignaco che devo fare un paio di telefonate, a proposito sugli alle 11 siamo di 20. Vignaco, sono stato molto curioso di sentire quelli che hanno colossato, perché quando sento che il barbanzia che fa tutto, che bisogna del tornado. Ma cioè, guarda, io la sto prendendo già. Insomma, gli sbatte sono meno dolori, li tagliate insieme, purtroppo è così, non dobbiamo fare nulla da niente, perché è così, però, ripeto, sono sicuro che il tornado non le prende, che, oddio, non le prende, no, ma di forse non le prende, le prende molto, molto, molto di meno di questi omologati, molto, molto di meno, capito? Vediamo, poi se riprende, allora vuol dire che devo attrezzare. Io qui non si accondotta, mi vengo in dubbio. Perché se riprende a Franco e si sposta, nella Ticcalaio non si butta nessuno. L'unica persona che sente è Adriano, bene, basta, non si tolta nessuno. Pure a te ti copre, figurati. No, non è mai a lui, ciao per Franco. Oh Cristian, Cristian, tu sei. Sopra, poi che no, che non sto seguendo, ma sto mandando un messaggio. Tu mi sto provando, sto fischiato. Ho finito tutto, saluto. Mi sto cercando, mi sto modulando, boh. Ah, tu non mi ha chiesto, va a fare il cielo, non so se l'ha modulato, ma dirigenti. Mi ha chiesto, va a fare il cielo, io non stavo seguendo, sto mandando un messaggio. Che cosa mi riguarda, boh? Mal di gola, sì. E la sigaretta, si è molto mal di gola, mamma mia. Non mi ricordo, non vuole parlare, mamma mia, non vuole parlare, non vuole parlare, mamma mia, è passata a me. Faccio un mal di gola, mamma mia. Mi è dovuta. Però mi ricordo, mamma mia, ho detto col cazzo, ma con la trasferita, con il gruppo. Se lavora con la faccia, mi sono fatta. Molto brutto, infatti io ho provato anche quelle squicco di spray per mal di gola, l'unica cosa che mi ha fatto male è il miele, quindi non mi piace, però mi ha fatto la mano di Dio, senza latte, io il miele, il latte bianco non lo mangio, ma ne manco, io lo mangio solo un caffè e latte, oppure magari con cacao, ma bianco, cucci. Pure io non mi arrivo, è come un po'. E chi le chiama di gola? Tu? Sì, ma si sente perché? Qui dice che la popolazione è un po' cupa, però lasciamo che la questione di microfono. Non ho fatto il microfono, non ci sono che non ho. Ah, così è. Ah, con il carico mi ha dato via. Ah, boh, non so. Ho sparito così nel nulla, sta dormito, sta a cucire donna. Già sta soltanto, non mi si preoccupa. Braco, braco, braco, braco, braco, braco. Sta a cucire, guarda il tracco. Infatti qua, è quella cosa che si applica a questa carica qua, che la dice di finire, cosa bisogna fare. E come si fa così, è tenuta con i finiti. Non ho capito, io sono un silenzio, mi sa che c'è la radio, un buco, c'è la cosa che si può. Ma che mi sa di non che non vale a fare la cosa che non si può. Ma che non c'è la radio, ma qua c'è la radio, due radi, io ho un buco, ma non è da fare. Questo è lo scudo. Ho visto ci muovono, ma io mi c'è due sinistra. Non è sparito il problema. Perché? Lì lo so, sembrano due radi neri, ma invece sono due potenziali tra i due. Comunque, Alessio, già la contano un po', ma si non la chiede cioè, ma cosa, non so come sta dicendo, perché la mostra della scheda, se la conosce solo come la prima. Mettiti un po' una scena che hai tempo, voglia, ti metti lì, lo riapri, ti dai una controllatina, poi strumenti, cerchi di darle l'autocontrollo limitato, perché poi finisce anche troppo spinto di LC e quindi l'autocontrollo ti fa rientro di RS. Quindi cerchi un po' di sistemarlo in condizioni buone da poterlo usare tranquillamente come lo usavi in corsa retta, perché io mi ricordo andava molto bene con la radio. Adesso è intoccabile, tu qualsiasi funziona tu, chi inizia a fischiare, in quell'altro è un casino. È un casino, su quello se fa un po', però quando vuoi non sono problemi. Tanto meglio non ha nessun problema, come lo proviamo qua a casa, te lo faccio sentire, le attacco qualsiasi cosa, ho l'MC85, l'MC80, l'MC60, microfoni normali, tutto, lo proviamo a mettere sopra di antenna con la massa attaccata, tutto regolare, e proviamo sopra cordatore, sopra tutto, lo proviamo, vediamo se il difetto è perché sto lavorando in un piano dove magari non riesce a lavorare, o se è proprio questione di radio che vuole rivista, insomma, risistemata bene. Non si basta più al testo, troppo fatto, se sono la variare al sotto, ma come ti senti niente, io sono ancora le 50 donne dalla base. Infatti, allora, ci sono tanti fattori che possono causare, purtroppo sono delle radio molto particolari, quindi ci può essere questo problema causato o dall'antenna, o da come ha impostato il piano di lavoro anche Stefano, perché lui mi dice a suo tempo che aveva il piano con praticamente il basamento in ferro, quindi quella radio avendo un circuito così sensibile può darsi che ne risenta. Io ho lavoro sul piano tutto in legno, con piedi in legno, tutto praticamente fatto da me, autocostruito, e non ho più avuto quei problemi. Poi dalla volta che mi sono sistemato queste masse con la piastra attaccata al muro per caricare queste tensioni, i microfoni non fischiano, niente, nessun microfono. Io invece il mio MC60 a volte fischiavo, a volte fischiavo, ma comunque io ne ho un microfono da provare, non c'è problema. Quindi possiamo fare questa ulteriore cosa. Non c'è problema, non c'è problema. Oggi sei tu, però la modulazione è un po' più bassina adesso. Watch. faccio ormai, come hai detto tu. Faccio nella L, metto quello da lì. Dove c'ho vabbè, già l'hai visto, dove c'è quella L piccolina. Metto, cioè il faccio una L così sempre con la, praticamente ritoccato l'anno, ho fatto la curvettina leggermente più piccola e metto lì la radio, quelle, poi ho messo l'inuit, faccio la radio, no, quelle metto così, faccio una parte, come la chiami tu, Silver Boys, come la chiamata? Così, c'è una correlazione tipo, non lo so, Twitter che diciamo, non è suo, quindi con l'unità inserita non agisce bene. Se tu lo vuoi recitare l'MD1B8, l'MD1C8, o addirittura c'è un microfono ormai io, sai, direto a questo se lo vuole provare, ma se passa non va a prenderlo. Io c'è un microfono originale, chiamo una caccia omicidiale, una bomba. Faccio provare, se mi interessa. Sei molto più chiaro adesso, è vero Luca? Sì, sì, però è bassa la radio, è molto bassa. È un'unità interna che si applica con la radio e praticamente dice così, le porta via a metà della modulazione, ma perché il microfono non è adeguato, capito? Ma io non si le tagliando dalla radio, e lei sta ancora modificando. Quale tua voce? Sto alimentando con la radio il microfono a tavolo. No. Caro mio. L'unità che tu hai inserito ha praticamente un'amministrazione a sé dove l'inserimento del microfono ha gli autovoce e quindi agisce sull'autocontrollo. Se invece tu usi il microfono con le batterie, l'autocontrollo non agisce, quindi non va bene. Lo sa presto. Poi sono modifiche che vanno fatte, capito, per inserire sui microfoni. Quella radio, secondo me, l'hanno già modificata perché se tu inserisci l'MD1B8, l'MD1C8, cioè il suo microfono originale, ha gli autovoce, è alimentato da lì. Come mai non funziona lì? Ah, boh, non lo so, adesso ti risento la cosa. Hai risentito l'unità? Sì, ya. Vedi come ho messo la radio? Me ne sono accorto, allora mi sa che la modifica l'ho fatto alla Kenwood, con la realtà. Mi cambio questo filo, aspettalo legalmente il microfono questo qua, con l'altro volto dell'apparecchio. Si conferma, e tu vedi la differenza. Se tu quel microfono lo alimenti con gli otto voci della radio, perché ce l'ha gli otto voci, quello perché il suo microfono a tavolo, quindi quelli della l'MD1, e tu non sai che funziona con gli otto voci della radio. Se tu non hai quel microfono e hai gli otto voci, non ce la fai a tenere anche l'unità inserita, capito? So cose che fai tu, quindi lo sai quello che devi fare. Fare quella modifica e poi lo provi e mi dai la risposta. Allora prima ne ho fatto domanda, tu cavo ce l'ho, nuovo, sono un cavo a secolo, ho fatto questa verità. E sono fortunato che ci sono anche figli qui da lì, perché i figli in più, basta due finiti, anzi solo uno, perché si è fatto con il sensivo di alimentazione, perché la vostra via è tra la parete. Esatto, uno solo ne utilizzi, e non è il tuo voce, e poi mi dai la risposta, l'unità inserita è il tuo voce del microfono, è eccezionale perché hai l'autocontrollo e quindi automaticamente si tiene la radio bella stabile e chiara, ti elimina quel medio bassi che hai e ti dà una modulazione proprio perfetta, perché è praticamente quella unica che metto per tipo l'autocontrollo dell'LC come gli altri radici, come quella scena vecchia, non c'è l'autocontrollo dell'LC, ha questa unità esterna che permette a parte le memorie di tenere in autocontrollo il sistema di trasmissione, capito? Ma abbiamo già fatto quella prova, è molto bella, vedrai mi dai che avevi ragione, ritieni Luca. Ma era combinato, ancora già combinato. Ora, No, lui non è il Cufa, è molto più fine come modulazione, però non so quanto ascolta Luca, è più vicino, vediamo un po' come è, vediamo un altro. Puoi fare un passaggio, Vasco? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova, vedi un po' come si sente. Io ti sento bene, però non è una radio molto forte. Ma cosa sta usando sta letta? Capito? Lo ho già notato io, ce l'avevo, ma non ho capito. anche l'unità con l'accordatore avrebbe fatto una bella linea di quella radio. No, c'è bello gli altri a fare, perché per fare che quel traffico di ricezione, per fare i tanti caffè di ricezione da una parte e ricezione dall'altra, tipo flip. E va bene, cioè lì, ecco, non c'è manuale, quindi così la prima cosa, prima cifra, devo controllarlo un po'. Ecco, domani in mattina faccio il microfono e così lo avviniamo all'unità e poi vediamo un po' come cosa riuscirà a fare. Vediamo sotto la posta della batteria di ruota che si sta con quelli che si inserisce perché funziona. No, io come pensavo che avessi già fatto, conoscendo te, sicuramente quello ha già fatto la modifica degli autovolt e quindi automaticamente col microfono agisce bene anche con l'unità, ma quando ti ho sentito mi sono accorto che ti ho già la batteria, non hai gli autovolt della radio. Collega di autovoce, poi mi dirai la differenza, guarda, è eccezionale veramente, ma lavora molto bene con la radio, togliamo che io lavora molto bene, infatti io mi è capitato questa occasione del 200 e prendo anche il 200 perché hanno una, vanno molto bene con le radio, diciamo, per fare questo tipo di attività, quindi due cedimenti, due scontrate, vanno bene. Ho rimesso la situazione a tutti e mi sono fatto solo, non vi ascoltato. Volevo togliere un punto. E stavo usando un altro microfono, ma va meglio questo sul finale. Sì, c'è sempre il dubbio. Era una relazione verticale, molto chiara, molto presente. Gli altri tendono un po' a... hanno qualche problemino di tonalità, ecco, tutto lì, non è che per carità non ha, no, cioè, io dico sempre quei controlli che noi facciamo molto, molto frequentemente, perché la radio per me deve essere chiara, beh, la pulita che c'è è forte, ma deve avere una tonalità, una, la sua tonalità, ecco, questa è la sua tonalità, non c'è dubbio. Comunque se vuoi fare qualche altra prova, non so, questo mio microfono mi pare che ce l'ho ancora a dormire, ma anche stamattina io ho usato in macchina, ho messo l'SBE, quello manuale, facevano le due versioni, quello preamplificato con la rotellina, però ho controllato la batteria completamente scarica, già sono poi sta uscendo, adesso ho fatto la batteria, ma questo lo faccio risentire, dovrebbe andare molto molto bene. E si abbina anche con la diversa radio che io ho quel microfono. Ok, Luca. Io la scena devo girare. La batteria scarica pure come si spegne. Si adrocca. Ma è già lì che ha fatto, ancora che è andata già. Chiaro che c'è della mattata. Va bene. Ok. Ma c'è un microfono originale, Marco, di quale radio? Aspetta, sono ritornato in altre condizioni, questa sicuramente va meglio. Poi, questo è The Voice. Voice, che il 142 è una vecchia, vabbè, lo sciupano a un amico radioattore, ma non si può dire. Questa è troppo bella, ultima radio veramente presente, cioè qua non ci sono tonalità che vengano, qua c'è i medio alti, medio bassi, amplificazione a go-go, bella, veramente bella. Se mi è costato un traguardo di sangue in tutti i sensi, non c'è una settimana di attenzione, ma meno male che Massimiliano è troppo forte. L'ascolto, bravo Massimiliano, complimenti, alla grande, e qua il lavoro che ha fatto Massimiliano è strepitoso, l'ha messa davanti a posto, mi sono riascoltato un sacco di volte, ho fatto un sacco di prove, è perfetta. Guarda, io ti do una notizia ancora, ricordarsi di sentire radio, di tutte le prove che noi abbiamo fatto, e noi ne abbiamo fatto tante, lo sai, no? Da tutte le parti, con le tutte le apparecchiature che usa Marco, radio come questa tu non mi hai lanciato. E noi di prove radio ne abbiamo fatto tante. Questa è la miglior radio che tu hai, non ce n'è. Ti ho ascoltato anche in barra della radio, abbiamo fatto la prova, non ce n'è. Guarda, è una radio, quella radio ci può assomigliare, solo assomigliare, perché chiaramente la tonalità cambia, quella radio ha più medio bassi, questa invece ce l'ha proprio regolati, sia medio bassi che medio alti, tutti assieme. Mentre tu parli arriva questa modalità così limpida, bella, amplificata, che è la fine del mondo, sono con 950. Altre radio che si possono assomigliare quella, a questa, tu te la sogni. Mamma mia, cosa è citata, quella è una bestia. 950, aspetta che mi sto riascoltando, sarei lì, mi sto riascoltando. 950 però è 950. No, questa va bene, questa va bene, è bella amplificata, e diciamo che è fatto questo per lavorare qua, c'è poco da dire, è un bel apparato da base per la banda cittadina, il discorso finisce lì, muore lì, veramente non ci sono storie. Nasce per quest'uso. Ma non è che è morto un gatto, no, se lo vedo, lo stai ammazzando da qualcuno, sembra un disparato, ci fai preoccupare. Dove sta il video? Dove sta il video? Vediamo un attimo questo breco esercitato. Di lui al fototore, se gira gira io arrivo al fototore con questa radio. Ma mi senti da fototore perché? La tecnologia lo ha fatto, ritrovi qua anche al produttore che arriva a questa radio. Vedi, io sono contento, io non so se ci arrivo, me due, tre, sembra che ha ammazzato qualcuno, sembra che sia un disperato di quelli che stanno chiedendo aiuto, un abbraccio ai voci, che la gente sta dormendo, buonasera, ben sentito, a una fiducia. Ciao, me due, buonasera, se mi ascolti a me, così non gridi. Capri, appa, quando lui c'era un altro, se siamo cani leggermente la modulazione rimane molto più libera, ma quindi il problema praticamente della radio divisa tra i toni bassi e i toni alti, mentre se ti avvicini acquisti leggermente una tonalità più da bassi. Molto bene. Sì, ma infatti lascio domani, perché adesso qui stavo tutta la sera che organizzavo il facello, lascio domani per fare la chiamata del 27 e faccio sentire l'Inuit il 694 con il gemello di quel microfono. Quelle sono le mie posizioni, Marco, io lo usavo così ed è favoloso. Sono a 2, Mickey Game a 5, non di più, perché altrimenti fa di questa bellissima qualità che ha con la radio. Domani ti faccio sentire l'MB più 4 con l'Inuit. Adesso ce l'ho qui, lo stavo preparando, praticamente mi ho cambiato il carretto dell'alimentazione, perché era giunto, è marrone, bruttissimo, ho preso un metro e mezzo di cavo greco nero, suo originale bellino, ho messo la presa nuova, tutto nuovo, e me l'ho preparato, e poi te lo faccio sentire domani, però, perché adesso non ho più voglia. Non è che bugiare, vuol togliere l'orario, fare il posto, e così sposto tutto e faccio un piccolo studio lì delle basi. Adesso vediamo, Marco, come risponde l'FT200 con lo Shure, perché io non l'ho sentito qualche anno fa, uno Shure con un FT7B addirittura, che è tutta un'altra cosa dal 200 superiore, come tonalità microfonica. 7B è ottima la radio. Io quando la sera con la radio mia, spengo radio di ultima generazione, è una ricezione favolosa, ma grande. Peccato che in trasmissione non sia così eccezionale come la ricezione, ma è veramente una cosa assurda. Anche il 902M, che sono le varie praticate che ho ottenuto 707 della categoria vecchia, e gli altri li ho tutti fatti fuori. A proposito, se senti a coso, che mi aveva chiesto il 711, te lo ricordi, Marco, quando eravamo alla ghiera? Ah sì, c'era qualcuno che era interessato. Basta che chiedere lì a Marco o a Ugo, mi state da fuori. Vediamo un po' chi è, così glielo incarti e da tanto più di Natale. Ma con regalo natalizio, la segno in bocca e poi vediamo un po' cosa c'è quando arrivano questi altri apparati qua. Mi sono buttato su questa cosa della 27, ma ti ho detto poi della riprata, è un Cobra 21 XLR, un di un primo, un Fiat, un Tianberry e un Cracco. Questi sono veicolari, però, questi da ripetere, mentre gli altri sono a base. E qui facciamo la connessione, avremo i rianimatori qua in 11 metri, e se questi fatti. Ma poi me la prendo nel canale lo stesso, questa cosa va meglio, lui se ho deciso la te, perché non ho grosso posto, e sono contento che abbiamo fatto uno scambio, mi serviva quello, che serviva quello, basta. Abbiamo chiuso gli occhi per due, anche se le lacrime ci sono scese lo stesso. Ma meglio ricordare quando ci vediamo, che tipo l'indirizzo di quel cretino, capito, che ci ha fatto molto grande, le mandiamo una nota negativa, perché in quello che è stato fatto, cioè quella radio, però è stato costato denaro. Schifosa, a quanto mi hai fatto capire tu, perché non può tenere una radio esteticamente molto bella, sana, e poi all'interno tutta una valigia attaccati fini con le cingomme, cioè è veramente una cosa vergognosa per chi fa questo tipo di attività su eBay, non sei d'accordo? Mi hai detto che abbastanza sabato, poi quando ci troviamo andiamo insieme, magari ci vediamo con Massimo, con Massimiliano, te lo faccio dire da lui, allucinante qua, meno male. E sì, ho incontrato un bel po' di soldi, un bel pacco di soldi. Vabbè, ormai ero in ballo e mi sono messo a ballare, pazienza, è andata così. Meno male, si è potuto però riparare tutto bene, rimettere in ordine come doveva essere. Ma la nota negativa dammi con il dito perché gliela mandiamo sì, perché non va bene, non va assolutamente bene. Non può dichiarare cose diverse dalla realtà e altrimenti lo promettono dal circuito. Sì. Vabbè, adesso vediamo un po' questi qua. Chi mi preoccupa sono le spedizioni dagli Stati Uniti. Lì, colpi da niente prenderanno lui viaggi. Speriamo che non arrivi la roba tutta rotta. Vediamo. Io gli ho raccomandato che di fare un imballaggio grande, mettere parecchio protezione per evitare il danno, perché lì caricano i container e la roba la ammazzano a primo posto e poi la caricano, la lanciano da un lato dell'altro e non arrivi in rota, che non arrivi danneggiata, perché allora questo mi dispiace tanto. Vediamo bene. Marco, parla un attimo. Sì, Luca, siamo qua, non c'è problema. No, vabbè, è così, la nota è quella, quando più viaggio c'è, più rischio c'è. Capito, Marco? No, io l'FT200 c'è una provincia di Roma, mi pare Latina, mentre l'altro è una provincia di Milano. Quindi sono vicini, adesso abbiamo chiuso praticamente stamattina alle 12.30, che ha detto mi ha telefonato, ma sono andato a casa, quella che è la direttore, non c'è un problema, dammi tutto il buon rimasto, domani faccio facciare tutta la documentazione e mi ha già preparato i fogli, insomma, i versamenti, però faccio come lui praticamente. Praticamente come io le mando i quattrini, lui finiscono le due le cose. Vabbè, speriamo bene, anch'io avevo deciso di non partecipare a queste cose perché non ci ho mai creduto sinceramente, ma ho visto insomma che le cose arrivano, anche se non ho quello che facciamo, mi interessa, mi piace tagliare, che ci ha occupato lui, una creativa che la voglio mandare, perché insomma tu a me mi fai delle cose in questa maniera, cioè mi lavoro esteticamente bella, molto bella, sana, pulita, tutto ordinato, ma la tratta c'è fornata, ce l'ho fornata, cioè all'interno cioè, è tutta la manovra, fate tutte delle fesserie da ragazzini da cane, perché insomma ragazzini. Proprio da gente è incompetente mettere come io mi sono accorto, perché quando ho applicato il trasformatore suo mi si è messo la luce anche a me, perché ma forse il trasformatore non ce l'ha fatta, avevo visto che c'erano i cavettini della alimentazione dietro, poi altra caloniata, quella altra fesseria, un mammuti, che cosa allora che fai, fai il mio lavoro con il cavettino suo, bello, molto bello. C'erano finottini con i cinque manette, lì li ho messi io, perché tutto per usare un po' decentemente, presentabile, altrimenti c'erano i fili tutti attaccati alle trasformate, allucinate. E ho visto che c'era il caduto di alimentazione e gli ho messo la fermentazione a 12 minuti. E mi sono accorto che la radio andava un po' meglio, capito? Perché sulla linea 220 ci hanno messo un problema e abbiamo partecipato tutto, ecco qual è il problema. Poi ci hanno partecipato un casino, dentro era veramente la gestione dei cartelli. I casi giuntati a mano, attorcigliati e lasciati così scoperti, figurati. Qua analista, ma se hai un sacco di spettacolo, cambia tutto, metti tutto nuovo, fiammate, ripristina, prendi il transistor dell'alimentazione, fuori come quelli che c'erano montati originalmente, ma se viene ancora ripeto, e quindi so già anche che cosa è, non c'è problema, già lo recuperiamo. Che c'erano su due transito, uno l'ho detto Massimiliano che era un transito che non è un transito che si usa per l'alimentazione ma è un transito per altre cose, tra l'altro saldati con azzardo, ma ancora un pasticcio, però adesso quando capita nel vini qualche cosa ti faccio vedere, lo apriamo adesso vedi che la cosa è fatto veramente come si vede, ce ne sono più di quei partiti, tutto là praticamente rimesso come era originale. E infatti vedi adesso sono in trasmissione e anche fissando quel leggero abbassamento di tensione che è normale, quando così come capita, ma io vedete, non ancora non si spegneva prima. E poi si era proprio spenta, come stavo facendo quella prova, puff, si era spenta completamente, ho detto no, la siamo spenta, è andata benissimo. Meno male, invece Massimiliano ha messo tutto a posto, ha allineato perfettamente, tutto controllato, e adesso è ritornata ai vecchi fatti, così come doveva essere. Ne devo pensare a fare quei ritocchini del fianchetto in legno e poi così come la senti è? Anche a me mi sono venuti gli attacchi addirittura sul microfono e poi mi hanno fatto la settimana scorsa a Simon Franco che lui ci ha ordinato dopo la preferma ho chiamato prima per farmi mandare, perché Alfredo mi ha, per farmi mandare i capelli che verranno inseriti per le altre due uscite, io contentissimo, ho detto così con un microfono uso per radio, mi ha risposto, ho detto prima che quei capelli non esistono più e che vogliono ricordare più. Bella protettura, per modo come faccio a farli. A uno che Marco ci metta una sera di tranquillità e si informa e si accade, mi dice cosa dobbiamo comprare e mi rifletto con quella macchinetta che c'hai. E così si possono rifare, è un lavoro di pazienza ma si possono rifare come le avevo fatti qua nell'altro. L'unica cosa è che bisogna salvare, perché trova, a meno che bisogna sentire Massimiliano che magari lui non abbia qualcuno di quei connettori, perché quel tipo di connessione è quella che molto spesso viene usata per puntare un flat di un circuito stampato con un altro. Potrebbe lì nelle cose che lui ha, potrebbe averne qualcuno similare, perché è frequente che ci siano così con le connessioni a 8, a 10, a 12, a 20, a 6, a 4, capito? E sono cose che lui so che recupera e che conserva, perché poi all'occorrenza servono tantissimo. Ma perché se lui ce l'ha, perché così non si salva neanche, capito? Se inseriscono, si rifà, si comprano solamente due spezzoni di capo della stessa lunghezza di quell'altro, e i connettori microfonici, e si fa una cosa fatta bene, così come deve essere. Esatto. No, io pensavo chiamato anche Alfredo, ma ecco, non ci siamo più da tanti anni, facciamo scusa, se lei mi ci ha dato cinque ancora in commercio, e altre uscite, perché i cavetti opzionano, non ci devono essere. Io ho guardato tutte le riviste che io, a suo tempo c'erano, sono andato lì, c'è anche la sigla, tutto telefonato, molto allegro, invece tac, la mancata Ilia. sono rimasuri di depositi di negozi, magari chissà quanti negozi li avevano, non li hanno venduti perché poi la gente non se li compra e a un euro, a due euro te lo tira a fianco. Anche questo come morita se ti capita, passeggiando, magari cosa che io non vedo, capito? Anche quello è una cosa da fare, perché è un peccato, cioè se è un microfono, così è il canale, hai tre commutazioni diverse, posso usare, ero già tranquillo, usavo il 40, il 2000, il 50, ho la doppia di neo, questi tre mesi 60, c'è anche spazio per l'altro MD1, per il 920, niente, nulla, niente da fare, non c'era nessuno, mi alzo tutti, niente, ho che arrivare alla casa costruttrice, prendere la barcaccia, ma non è per niente, devo avere questo lì, se si possono avere li cerco in capo al mondo, se non si possono avere li faremo fare, non ci vediamo, tu no, ci vuole la l'attrice, perché è quello, ci vuole l'attrice, altrimenti è un casino, a saldare e fare, ma ok, ma è tutto, ma ci vediamo, vabbè, con le spinettine, ci l'ho aperto, gli ho poi le volte per vedere, visto che ci sono queste spinettine, ho cambiato la conoscenza, l'ho messa al centro praticamente, lavora molto meglio. E va benissimo, sto usando sempre tutti i giorni, non c'è un problema. Ok, Luca. E Luca sarà mandando sms, intanto ormai ha fatto la scheda comandando il centro, perciò sarà lì a scrivere. Sì, non è un problema, quello è, se si trovano adesso che c'è la fiera, bene, altrimenti sì, lo portiamo qua un attimo, ci mettiamo, comprare i connettori, mettere il contatto al cavo, si salda ed è uguale, perfetto. Se si riesce a evitare di saldare, meglio, se invece non si trovano, si salda e partiamo. Tanto poi una volta che era chiuso non ci deve mettere più le mani, rimane così, no, con il torri 1, 2, 3, boh, via, collegare e andare. Ti volevo dire, io ho anche uno di quelli che mi arriva di base, è il Navajo, quello lì è con il Carmel più 3, quindi ho anche un altro di Carmel più 3. Cioè, bisognerebbe trovare vedere come va con il Tamer qua questo apparato, perché è di quel periodo, dovrebbe funzionare bene. Marco, avevo l'impressione di no, sai perché il Tamer tu mi scegli con la cassola ceramica particolare, è una tonalità molto molto molto più alta, a questi milionati è una cosa impressionante. Bella lo stesso, eh? Oh, questo mi piace più perché col microfono ha il tono separato, quindi tu ti regoli il tono e poi hai l'amplificazione. Secondo me lavora molto meglio l'MB5 che il TAM3. C'era anche io il TAM3 grigio, che avevo sulla linea 3 che non l'ho dato, molto non l'ho tenuto. Capito? E infatti io mi dice se ho sempre cercato, perché non provi direttamente a attaccare il TAM3? Ma io il 33 l'ho sentito, tu lo attacchi su qualsiasi radio, anche sulla linea quando io lo usavo, aveva questa tonalità molto alta, aveva questi toni molto alti, non c'erano bassi, capito? E questa modulazione si andava proprio da vendoso, non mi piaceva, mi ascoltavo e non mi piaceva. E quindi ho deciso di prendere quel microfono perché ha i toni. Vedete, capisce, ecco, quella radio per me va benissimo, non ce n'è, è troppo bella la modulazione. E invece con l'MB4, che io ho senza toni, l'MB4 lavora molto molto bene con l'inuite. Con l'inuite lavora molto bene perché c'è la mic gain a parte, c'è alcune cosettine, lavora molto bene, è abbinato proprio sull'inuite. Quello invece che io ho messo in macchina stamattina, quello ci abbina un po' a tutte le cose, anche all'Inuit, anche al Royce. Va molto bene, però è manuale, si dice, microfatta, adolescente, microfatta, non ci sono cose. Allora vediamo, c'è anche questo sciure, quindi possiamo provare a far vedere come lo provi tu, vedi come va, magari su una varia tua, io provo per dire un G3, magari su una mia, vediamo, insomma, facciamo questo numero, vediamo di adeguarli bene a queste radio antiche che abbiamo preso, queste radio vecchie. Vediamo un po', insomma, di far uscire bene. Se io ho recato l'FP200, mi ricordo che con lo Shure lavorava molto, molto bene, aveva tipo quella modulazione che tu adesso, così. Poi sai, noi abbiamo una timbrica un po' particolare che ci adegua molto, ce l'abbiamo, insomma, noi non riusciamo bene con qualsiasi tipo di microfono, senza fare. Evidentemente le corde vocali sono quelle, è molto chiara sia la tua che la mia, lo sai, quindi possiamo fare delle prove, vediamo un po' di cambiare i microfoni e adeguarli bene. Perché ci hanno recato le 200 con lo sciure, non c'è, quello si piazza qua e in 27 si viaggia con quello, altrimenti col Cobra X, ora me lo metto per il mio letto, comunque molto bello anche quello lì. Lì invece c'è il suo microfono originale, c'è il suo microfono originale, però mi ha detto che le caratteristiche sono molto bene, non interessa, se c'è il Trom dovrebbe lavorare bene. Altrimenti le metterò il talmente 3, vediamo un po'. Va bene, Luca, ci sei? Sì, lo visto, ci sono, sto provando una sigaretta, stavo mangiando un pezzo di pane, sto qua. Mangiare questo lo fa sempre bene. Mezzanotte, e niente, io una sigarettina, come va andando, perché domani si lavora, inizio a Barone, poi c'è un fatto riposo, domenica ho una giornata di quelle allucinanti, faccio il primo turno di mattina, poi sono reprimere praticamente tutte le altre 12 ore, e questa notizia brutta, perché non posso andare in sciopero. Ehi, capo. Oh, adesso stavo guardando, c'ho una guitarra G3 nero, quindi guitarra G3B, sì, e mi ricordo benissimo che tira sugli alti e c'ha un effetto un po' effetto camera, anche come tipo di microfono. E poi ho un altro di quei microfoni piccoli che te l'ho fatto vedere da Palmo, amplificati con la rotella che ho preso lì in fiera. Però devo controllare le condizioni e vedere un po' come funziona. Vabbè, proveremo, dai, faremo, ci dedicheremo anche a questo giochino. Va bene, e anche io vado a nanna domani mattina, a tuo letto vado a Cagliari, faccio bisogno di prete andare, dovremo anche andare in ufficio prima di partire. Ci sentiamo mai per telefono, ti faccio sapere qualcosa, se sei in radio, tanto domani sera poi lungo la strada ovviamente accendo la radio e chiamo magari così. Se ci sono novità, dico, non sono direttamente da Pedro, ti do un colpo di telefono. Altrimenti niente, poi verso le 6:30 così io mi attivo a rientro, perciò magari sarò in ascolto su Mix Nazionale e magari metto anche qua in su canale 10, ma quando sarò già ormai in fase di avvicinamento. Ok, ci sentiamo allora, ciao ciao, buonanotte, ciao anche a Luca, chiunque fosse in ascolto. La stazione Scorpio, ma buono in chiare di nuovo, ciao, buonanotte. Sì, prendo io Luca. Sì, Marco, tu fai una cosa, quando ce l'ha preso, controlla se ci sono quelli stili, me lo prendi direttamente. Uno quello che ho letto della PDC-800, che è quello leggermente più corto della PDC-1000, quindi quelli stili lì, se poi ce n'è qualcuno ancora più corto, prendi lo stesso, non me ne frega niente. Guarda che entri, appunto, che sia parlata la 27, che abbia la frequenza riguardo a quella 27. Un stilo in acciaio, come vuoi tu. Ma quello è lungo, vedo, non ci sono problemi. Ok, poi ci sentiamo sul ponte o sul link, eccetera. Poi io, se tu qualche rientrato sei già alla festa, lo sai, no, di Marco Mera, Guamora, quelle zone lì, non ho nessun problema, ci sentiamo anche più distanti, ci sentiamo anche da lì dalla prima in Campella, ci sentiamo molto bene anche il 27, arrivo tranquillamente. Ok, ti saluto, buonanotte, ci sentiamo domani per telefono, ci aggiorniamo telefonicamente. Il microfono per Luca, al secondo finale, così anch'io sono ci contatti. A te Luca, ciao. Ok, dai, buonanotte a tutti e due, allora, alla prossima ci sentiamo. Comunque, se non ci sentiamo al malattino, non mi sapere un po' quella cosa là, dai. Ci sentiamo lui, e ci sentiamo tanto la prossima settimana, ma questa. Ci sentiamo tranquillamente. Ci aggiorniamo anche noi, non ti preoccupare, vedo quello che posso fare. Ciao, buonanotte, ciao anche a tutti, compresi le seguite del in assoluto, sono stati ancora qui, bye bye. Ciao, ciao, alla buonanotte, ciao. Ciao, ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Luca, stasera sei andato molto meglio, mi vedi più sereno, beh, ciao. Ok, meglio così, ciao, ciao. Ciao, ciao, guardate, si incazza solo, non c'è importante. Ciao Luca, però. Te ne sei accorta là, che se no, insomma, diciamo che qualcuno mi scappa, ma vabbè. È umano sbagliare, sbagliano tutti, perciò non c'è problema. Ma buona prossima, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.